distanti dal reale, distanti dal creduto, senza fine alcuna, e mai perdono senza mai ragione, enigma senza fine, senza mai ragione. Trascorre un surreale di odio, dilaniate, torturate, oppresse da cecità, con gli errori rifatti e mai ponderati, confuse, distratte, bruciate da vanità, rabbia e nozia rinnovate, ingrandita, usurata da falsità. Pensieri distanti da momenti di pace, guerre ignoranti, cecità del mondo, distratto da fatici fatati, follie mortali, follie finite per noi. Non di amore improprio, ma di saggezza e compressione, in un lucido calcolo benevolo possono aiutare e tentare una strada di guarigione. Ma tutto questo diventa inutile se il nostro ego non viene compreso fino in fondo e corretto, incastrato in un puzzle di alchimie dove ogni tassello ha la sua ragion d'essere. Ma tutto questo è ostacolato da forti volontà inopportune a un giusto vivere che con scarsa grazia e forte tenacia insistono con le loro assurde pretese di dominio giustificato a moderno sviluppo e maturità. E pian piano questa diventerà incoerente normalità, nella quale un tunnel infinito di tristi domande si affannerà a trovare risposte non comprese attraverso la ragione di un singolo pensiero. Sternato di falsa donazione, amore confuso di false aspettative, sangue sognato di furia desolata, carne incisa, pensieri smarriti, dominio impazzito, violenza agognata, cicli senza fine, di morti rinnovate, compressione oscurata da forza di sapori, perdono invocato ma mai alimentato, tortura di carne e di anime arrabbiate, occhi sudati da madre incarnata, dominio impazzito, violenza agognata, cicli senza fine, di morti rinnovate.